Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi mercoledì 10 dicembre 2008, 15 giorni a Natale. Una giornata che si prospetta un po' difficile sotto il fronte del traffico. Nevica su gran parte del nord Italia, soprattutto in Piemonte, in Liguria, in Lombardia. Avete sentito prima le notizie sia del meteo sia del traffico. Vi terremo aggiornati per chi è o deve mettersi in viaggio in queste ore, sia nei notiziari di che strada fa, sia nel corso dei GR24. A proposito di GR24, la giornata si è aperta bene con la notizia del premio, il premio dei Media Award di Class Editori. Devo fare i complimenti alla redazione di GR24 perché hanno vinto questo premio annuale destinato appunto ai media, nella particolare categoria dei giornali radiofonici. Quindi un premio per noi, di questo non possiamo che essere compiaciuti, e speriamo che compiaccia anche ai nostri ascoltatori. Ma colleghiamoci subito con Piero Ignazi. Buongiorno Ignazi. Piero Ignazi, docente di scienza politica a Bologna, collaboratore del Sole 24 Ore e direttore della rivista Il Molino. Con lui parliamo soprattutto di politica estera, ma prima gli chiedo, nevica anche a Bologna? Per ora no. Per ora no. Nevicherà, secondo me. Quindi una notizia per chi deve mettersi in viaggio: a Bologna non nevica, a Milano sì. Politica estera, oggi è anche l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'avete sentito nei nostri GR, una dichiarazione sui valori fondamentali della convivenza umana, una dichiarazione che dovrebbe reggere le relazioni interne e internazionali. I problemi sul fronte internazionale sono molti. Ieri è stato in visita a Roma il generale americano Petraeus, già comandante delle forze americane in Iraq, e anche se di politica estera si parla forse poco, però indubbiamente in questa fase soprattutto di globalizzazione, e in cui la crisi finanziaria fa sentire i suoi effetti, le relazioni internazionali restano e devono restare importanti. Piero Ignazi. Sì, certamente noi abbiamo alcuni elementi cardini della nostra politica estera, noi come appunto Stato italiano, che sono stati tradizionalmente, fin da sempre, il doppio binario di una forte identificazione col progetto di costruzione dell'Europa e di stretto rapporto e alleanza con gli Stati Uniti. Questi sono stati due binari che sono andati paralleli per una volta, salvo qualche piccolo scartamento in alcuni momenti negli ultimi anni a favore di un rapporto un po' più stretto con gli Stati Uniti e un po' più lasco nei confronti dell'Unione Europea, ma tendenzialmente questi sono poi specie di linee guida da cui non ci si può togliere, non ci si può scartare. Ecco, ma in questa prospettiva, mentre ricordo gli ascoltatori, il numero verde 800 24 00 24, in questa prospettiva, e per il fatto che siamo appunto in una crisi finanziaria quanto mai complessa e difficile, una crisi che peraltro viene da lontano, non è stata provocata all'interno né dell'Italia né dell'Europa, ma soprattutto degli Stati Uniti, non c'è il rischio che anche sul fronte delle relazioni internazionali si tenda un po' a chiudersi in se stessi, si cerchino delle vie nazionali per la soluzione della crisi, per affrontare i problemi economici, ma quindi anche con dei risvolti politici che potrebbero essere di svolta rispetto al passato? E questo lo dico non solo nei confronti degli Stati Uniti, dell'America, ma anche nei confronti dell'Europa. Non c'è il rischio che l'Europa perda un po' peso? Direi di no, tutto sommato, perché uno degli elementi positivi della presidenza francese di turno dell'Unione Europea, nelle mani del presidente francese Nicolas Sarkozy, è proprio quella di avere tradizionalmente, con la linea di continuità con la politica francese, di avere cercato di fare una politica in cui ovviamente il ruolo della Francia fosse preminente, ma non da sola, vale a dire in cooperazione con gli altri paesi europei. E Sarkozy ha avuto il pregio, secondo me, di essere un elemento di spinta, un elemento di promozione per cercare di arrivare anche di fronte a questa crisi economica, non solo, ma anche su altri poi dossier, ma soprattutto di fronte a questa crisi economica, un accordo tra tutti i paesi europei, di non muoversi da soli, ma di muoversi in maniera integrata. La cosa un po' sorprendente in realtà è stata invece la freddezza da parte della Germania di fronte a questi progetti. La Germania, che è sempre stata insieme alla Francia il motore delle iniziative europee, in questo caso si è rivelata molto, molto più tiepida e per una volta ha agito da freno, non è stata più a testa a testa o a braccetto della Francia nell'agire appunto da motore, ma invece questa volta ha agito da freno. Ecco, ma in questa prospettiva l'Italia si muove da protagonista, da comprimaria oppure sta a guardare? L'Italia sta un po' a guardare in questo periodo, sta un po' a guardare anche se sul piano economico, contrariamente alle esperienze del precedente governo Berlusconi, c'è una maggiore sintonia tra le prospettive del governo italiano e quelle del governo europeo, non ha ancora un profilo, diciamo, di guida. Le indicazioni, come dire, forti sono venute da un lato da chi è fuori dall'euro, vale a dire Gordon Brown, dalle decisioni prese dal cancelliere, dal primo ministro britannico Gordon Brown, che non a caso in pochissime settimane è risalito da un baratro di distacco dai conservatori fino adesso praticamente a superarli, guadagnando grande stima dalla sua capacità di intervenire in maniera decisa, concreta ed efficace nella crisi, e dall'altro appunto dalle iniziative prese dal presidente francese, e quindi sono questi i due attori principali in questa crisi a livello europeo. Ecco, c'è un sms, il nostro 349-238-6666, che ci chiede: ma con la nuova presidenza americana, dato che la presidenza americana è stata un po' sposata dalla sinistra, non ci sarà qualche difficoltà in un governo come quello italiano, che di sinistra non è? No, queste non sono, ci sono interessi, la politica estera viaggia sempre su binari che spesso vanno al di là del colore politico dei governi, perché riguardano appunto interessi nazionali che nella maggior parte dei casi sono fortemente condivisi da tutti gli schieramenti politici. È chiaro che ci sono delle differenziazioni, saranno soprattutto differenziazioni di stile, lo stile che era stato adottato nei rapporti tra il Presidente del Consiglio italiano Berlusconi e il Presidente americano Bush sono assolutamente improponibili oggi con il Presidente, ma la gaffa purtroppo del Presidente del Consiglio Berlusconi nei confronti di Obama è un piccolo neo, ma niente di più che un piccolo neo. Da un punto di vista politico credo che ci sarà da parte dell'Italia un rapporto molto, molto solidale nei confronti degli Stati Uniti, anche di fronte a politiche sul campo internazionale molto diverse da quelle prese dal precedente governo repubblicano. Ecco, in questa prospettiva è prevedibile che ci sia proprio una svolta anche sul fronte americano verso l'Europa, non dico verso l'Italia, ma soprattutto verso l'Europa, cioè che le tentazioni, diciamo isolazioniste, ma forse non tanto isolazioniste quanto un po' di richiudersi un po' in se stessi degli americani, di tagliare alcuni legami con l'estero, si è parlato addirittura della revisione del NAFTA, anche se poi è stato, cioè dell'accordo tra con Messico e Canada, anche se poi è stato anche questo un po' smentito dai fatti. Ecco, non è possibile che queste tentazioni americane possano prendere il sopravvento? No, credo di no. Credo che questa ipotesi di isolazionismo è un po' una specie di riflesso automatico di fronte alle crisi, ma da un lato anche il profilo di questa presidenza, che è un profilo molto meno, come direbbero gli americani, parochial, cioè vuol dire provinciale nella tradizione italiana, proprio anche per le esperienze personali del Presidente, che avendo viaggiato ed essendo anche, come dire, figlio di persone da vari paesi del mondo, avendo viaggiato, essendo cresciuto in vari paesi del mondo, ha una proiezione naturalmente molto meno provinciale appunto di altri del Presidente che l'hanno preceduto, e quindi il suo impulso sarà quello di muoversi verso un teatro globale con molta apertura. Di fronte a una crisi come questa è chiaro che in assenza di buoni risultati nei vari round per i vari incontri tra i paesi per arrivare ad accordi commerciali, visto che ci sono ancora molti dossier aperti, nella mancanza di accordi internazionali che già da molti anni latitano, è chiaro che di fronte alle crisi c'è la tentazione di andare avanti un po' da soli, e come l'Unione Europea prende i propri provvedimenti, gli Stati Uniti stanno prendendo i loro. Manca un ponte sul piano economico, un ponte transatlantico che invece sarebbe opportuno costruire molto più su questo terreno che non su altri di cui si è parlato molto in questi anni. Grazie, siamo in collegamento con Piero Ignazzi, docente di scienza politica a Bologna, collaboratore del Sole 24 Ore e direttore della rivista Il Mulino. Ecco, magari facciamo una piccola parentesi sulla rivista Il Mulino, Ignazzi, hai intenzione di rilanciarla? Sì, ovviamente io parto da un piedestallo molto, molto solido, molto forte, e però insomma, come in tutte le iniziative, quando uno ci si butta all'inizio vuole sempre cercare di mettere un'impronta, e quindi abbiamo cercato di modificare un po' il formato della rivista, introdurre nuove rubriche, renderla un po' più agile per rivolgersi a un pubblico ovviamente non di specialisti, ma a un largo pubblico di persone interessate a quello che succede in Italia e nel mondo, per avere dei commenti un po' più articolati, approfonditi, dettagliati rispetto a quello che abbiamo tutti i giorni dagli altri media. Ecco, quindi una rivista che resta bimestrale, edita dalla omonima casa editrice Il Mulino di Bologna, una rivista di politica, di economia, di scienze sociali, che appunto è una rivista di approfondimento comunque. Sì, sì, sì, certamente. Infatti il titolo storico dal 1951 è una delle riviste più antiche, e è quella che non ha mai avuto interruzioni nella sua vita fin da allora, recita proprio Rivista di politica e cultura, per prendere all'interno di tutto quello che si muove nel mondo culturale, nel mondo dell'approfondimento della vita pubblica, nella vita associativa, anche ovviamente quello che si muove nella vita politica, e quindi mettere insieme questi aspetti. Grazie. Un SMS mi dice: complimenti a Radio 24 per il premio, ma soprattutto complimenti al suo predecessore Giancarlo Santarmassi. Mi associo anch'io ai complimenti. Ovviamente il premio che è stato dato, il Media Award di Classe Editori a GR24, va innanzitutto alla gestione dell'anno scorso, quindi al mio predecessore Giancarlo Santarmassi. Sentiamo Matteo da Bergamo. Sì, pronto, mi sentite? Eh? Sì, mi dica pure. Velocemente, riguardo alla questione di politica internazionale, vorrei, se possibile, far riflettere su una questione, cioè il debito internazionale, cioè il fatto che tutti gli stati del consesso civile, a partire dagli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Italia, Francia, Germania, sono indebitati, cioè hanno una quota molto rilevante di debito pubblico. I cittadini di questo paese sono a loro volta indebitati. Allora io vorrei a livello internazionale non si sta facendo una riflessione sulla moneta, cioè sul fatto che oggi la moneta nasce come debito verso cittadini e stati da parte del sistema bancario, con le conseguenze che noi tutti abbiamo davanti agli occhi, cioè disastrose dal punto di vista economico e sociale. Vorrei sapere se una discussione intorno a questo tema centrale viene fatta a livello di politica internazionale, una possibile nuova Bretton Woods o no, considerando per esempio che negli anni 60 Kennedy aveva tentato un'iniziativa in questa direzione stampando soldi statali, dopodiché è stato ucciso e la cosa purtroppo è morta. Beh, forse su Kennedy sarebbe più complessa la vicenda, ma sulla nuova Bretton Woods se ne discute a livello internazionale. Cioè, l'accordo di Bretton Woods alla fine della Seconda Guerra Mondiale diede un po' un assetto stabile, almeno per qualche decennio, al sistema monetario internazionale, con al centro il dollaro. Poi fu un assetto che alla lunga si mostrò incapace di gestire la crescita economica complessiva, e infatti gli americani gli Stati Uniti con Nixon decretarono la non convertibilità del dollaro in oro, e da allora i cambi sono diventati cambi flessibili e gli squilibri sono diventati anche squilibri flessibili. Però indubbiamente il sistema monetario internazionale ha bisogno di nuove regole, ha bisogno forse di un'autorità centrale che possa aiutare anche ad avere dei controlli sui movimenti finanziari a livello globale, ma forse questo è un'utopia. Ma lo chiedo anche a Piero Ignazzi. No, sono assolutamente d'accordo. Ovviamente questa crisi favorirà un riassetto delle autorità economiche e monetarie internazionali. Non dobbiamo avere troppe illusioni che ci sia una capacità di regolazione da parte di queste autorità, perché non si tratta soltanto di gestire delle politiche dei governi, ma si tratta di dare delle linee guida anche ad attori privati che ovviamente utilizzano qualsiasi possibilità e qualsiasi strumento per poter poi agire nel mercato globale. Quindi sì, sarebbe opportuno avere autorità internazionali più attente, più dotate di poteri, eccetera, ma credo che il sistema economico sia sempre qualcosa che riesca a sfuggire a questi controlli, a queste possibilità di controllo. Ecco, un altro ascoltatore, Matteo, ci chiede: ma la Cina può essere ormai considerata all'interno del sistema occidentale, del sistema capitalistico, soprattutto a livello monetario e finanziario? All'interno del sistema economico mondiale, senza dubbio. Poi se uno vuole definire la Cina capitalistica, si può anche usare questo termine, che secondo me è un po' desueto, non designa più nulla, non esiste più nessuna economia che non sia capitalistica, dove non ci siano capitali privati che operino in un mercato più o meno, e questo è esattamente il punto, più o meno aperto e dominato e regolato da norme precise e vincolanti per tutti. Questo è il vero punto. Ecco, abbiamo iniziato la trasmissione ricordando l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Io vorrei concludere, avviarci alla conclusione, ricordando un po' anche la necessità che la politica estera, così come la politica, ritrovi le sue basi etiche, le sue basi umane, le sue basi di solidarietà anche internazionale. In questa prospettiva si sono fatti dei passi avanti con le battaglie contro la pena di morte, con le battaglie per i diritti umani, però la strada da compiere è ancora sicuramente molto forte. In questo senso, Ignazi, possiamo dire che comunque questo afflato etico ci può essere, ci deve essere all'interno dell'attività e della logica internazionale? Sì, ma con moderazione. In questo caso è il mio grande sostegno, appunto, se vogliamo, etico-morale. Nei confronti di questa posizione si scontra però anche con un po' il realismo delle relazioni internazionali, dove valgono molto gli interessi anche nel senso più nobile del termine, cioè interesse nazionale, che non sia solo appunto un gretto interesse economico di piccoli gruppi, e in realtà sono due corni del dilemma in cui ci si muove da sempre. Muove il sistema internazionale sulla base di principi generali, di principi civilizzatori che avrebbe portato con sé Napoleone nelle sue scorrerie per tutta l'Europa, allo stesso tempo ovviamente portate sulla punta della spada, e quindi portando anche in Europa gli interessi economici e di potenza francesi. Quindi ci si muove sempre da questi due poli, tra l'avere e presentarsi nella rete internazionale con progetti che non siano grettamente nazionalistici, ma siano invece di portata universalista, e spesso agire invece in funzione di interessi molto più settoriali e molto più definiti. Lo stesso nostro problema della sicurezza internazionale, che è stata rinvigorita dagli attentati indiani, è un problema che ci pone sempre di fronte al promuovere i diritti umani, a promuovere lo sviluppo della democrazia negli altri paesi, e allo stesso tempo nel promuovere azioni di difesa attiva, laddove ci possono essere dei focolai di crisi. Dobbiamo fermarci qui con questo invito al realismo, ma anche all'operatività concreta, anche per rispettare i valori, muoversi secondo interessi, ma anche l'interesse alla crescita economica e anche avere le risorse per rispondere poi anche ai bisogni crescenti del mondo. Grazie a Piero Ignazi, docente di scienza politica a Bologna e direttore della rivista Il Molino, grazie a Camillo Loricelli di regia, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domani.